Siamo in diretta con uno dei compagni imputati, insomma, questa mattina a Piazza del Clodio abbiamo già sentito una corrispondenza qualche minuto fa. Siamo in diretta con il diretto interessato che, oltre ad essere un compagno, un militante di questa città, è anche un redattore di questa radio, quindi la sua voce è piuttosto nota e la conoscerete, la riconoscerete. Dunque, intanto ti saluto, buongiorno, anche se magari di buongiorno non si può tanto parlare. Ti chiederei un commento, visto che sei direttamente implicato in questa vicenda, su questa udienza che ti ha visto coinvolto in prima persona. Sì, in realtà questa mattina si svolgeva l'udienza soltanto per me, per la richiesta di sorveglianza speciale, richiesta che non è la prima che avviene in quest'ultimo anno, in questi ultimi mesi, verso militanti, attivisti e attiviste dei movimenti, dei collettivi romani. Infatti sono la sesta persona che nell'ultimo anno si è presentata in tribunale per un'udienza per la richiesta di sorveglianza speciale che viene data come aggravamento dell'avviso orale, l'avviso di pericolosità sociale che in questa città nell'ultimo anno e mezzo è ritornato molto in auge all'interno della questura. Quindi sono decine i compagni e le compagne che hanno l'avviso di pericolosità sociale. Da quell'avviso, diciamo, se non si tiene una condotta secondo la questura, insomma, differente, si può ottenere questa richiesta di sorveglianza speciale che, ricordo, è una misura molto pesante, una misura che può implicare anche limitazioni della libertà personale molto pesanti, nonché un grosso peso per chi lotta, perché insomma vieta in pratica di stare con persone pregiudicate e tutta una serie di cose. Detto questo, per ora delle cinque persone imputate prima di me, le prime tre si è riusciti a non far ritardare la sorveglianza ufficiale, le altre due si è ancora in attesa della risposta. Sono militanti del movimento di lotta per la casa e questa mattina si è tenuta quindi questa sesta udienza per la sorveglianza speciale e si è conclusa in pochi minuti. Sono udienze molto rapide perché è già più o meno tutto depositato, tutti gli atti del processo, quindi ci sarà più da aspettare il responso. Detto questo, appunto, più che soffermarmi sull'udienza, che è stata semplicemente un portare la difesa all'interno e un momento formale, diciamo, quello che si è fatto è, questa mattina io ora sono fuori dal tribunale a Piazza del Clodio, c'è un presidio di 200 persone fuori dal tribunale, un presidio solidale che è stato indetto da qualche settimana costruendo una campagna appunto socialmente pericolosi per chi per cosa, che va un po' a spiegare qual è il nostro senso, diciamo, del perché ci danno questa pericolosità sociale, e anche un po' il fatto che ci rivendichiamo di essere pericolosi socialmente, se dobbiamo essere pericolosi per i palazzinari di questa città, per i poteri forti, per le banche, per il governo Renzi, per chi ci vorrebbe tutti e tutte in ginocchio, e invece ci sono per fortuna persone che si organizzano e alzano la testa. E allora, se così siamo pericolosi socialmente per chi appunto è contro di noi, per chi ci sfrutta, per chi ci condanna a una vita sempre meno dignitosa, allora appunto questo essere pericolosi socialmente è diventato un po' anche un modo di rivendicare quello che facciamo. Detto questo, appunto, rimandiamo anche al mittente un po' questo: chi è veramente pericoloso, poi lo sappiamo, siete nelle aule di tribunale, siete nei commissariati, siete in Parlamento, nei consigli d'amministrazione delle aziende, e sicuramente non sta con noi nelle strade tutti i giorni a manifestare. Quindi il presidio va avanti, per fortuna l'udienza è durata molto poco, quindi il presidio penso per le 11 terminerà, iniziata alle 9, e l'udienza dalle 9 e mezza è finita poco prima delle 10, quindi insomma, per chi stesse qua in zona, il presidio fino alle 11 è in corso a Piazza delle Clodie, e poi bisogna aspettare il responso dell'udienza per la sorveglianza speciale per me e per due attivisti del movimento di lotta per la casa, di cui si è ancora in attesa della risposta. E a questo punto direi che possiamo rimandare per questa ulteriore comunicazione, magari ci possiamo risentire in tarda mattinata, magari in vista del GR, appunto, per questo responso. Sì, ma sarebbe bello, però in realtà gli altri due compagni sono due settimane che non gli danno la risposta, quindi insomma non è detto che sia così breve, magari vi chiamiamo noi quando ci sarà questa risposta e cerchiamo di dare notizia tramite la radio. Va bene, va benissimo, grazie. Insomma, è bello, hai fatto bene a ricordarlo che insomma il calore dei compagni e delle compagne si è articolato appunto in questo presidio che in qualche modo va dato anche un po' di calore e appunto solidarietà. Noi ti salutiamo, ti abbracciamo e insomma ci risentiremo prestissimo la tua voce da questi microfoni, da questa parte però dal mixer e non certo. Magari in corrispondenza purtroppo da Piazzale Clodio. Un saluto, sì, allora. Un saluto a tutti e tutte, come sempre dalla radio, in particolare a chi è privato e privata della propria libertà. Sempre, un saluto a te allora.